Ciao e benvenuti su Wikipodcast. Oggi parliamo del banditismo sardo. Il banditismo sardo è una forma di criminalità nata e cresciuta nella Sardegna interna, legata soprattutto al mondo agropastorale. Ha prosperato in territori montuosi e isolati, dove le istituzioni erano deboli o lontane. Le comunità facevano affidamento su reti di parentela e solidarietà, e la sopravvivenza quotidiana si misurava anche con la durezza dell'ambiente. Le attività tipiche furono il furto di bestiame, chiamato abigeato, i sequestri di persona, le rapine e talvolta l'omicidio su commissione. Un tratto caratteristico furono le pardane, nel lessico sardo incursioni rapide a gruppi, spesso a cavallo, tipiche delle aree interne come la Parpagia, area montuosa della Sardegna centrale, per colpire e dileguarsi. A differenza delle mafie, questo fenomeno non ebbe strutture stabili né gerarchie rigide. Le bande nascevano e si scioglievano secondo necessità. E molti banditi seguivano un proprio codice morale, ispirato a regole tramandate a voce. Note come codice barbaricino, cioè un insieme di norme consuetudinarie non scritte del mondo agropastorale sardo, che regolavano onore, offese e vendette, nato in aree interne dove lo Stato era percepito come lontano. Il destino di molti passava per la latitanza e per la disamistade, termine sardo per la vendetta regolata da norme tradizionali. Un ruolo importante, spesso taciuto, fu quello delle donne. Proteggevano i latitanti, curavano i feriti, nascondevano e sfamavano anche i sequestrati e, in alcuni casi, partecipavano direttamente ai gruppi armati. Gli studiosi hanno riconosciuto più cicli storici del banditismo, legati ai grandi cambiamenti economici e sociali dell'isola. Una lettura influente lo interpreta non come espressione di una presunta cultura della violenza, ma come risposta deviata a secoli di marginalizzazione e prevaricazioni esterne. Già in epoca iberica si registrano episodi significativi, come un sequestro a scopo di estorsione documentato nel 400. Nel 700 il fenomeno fu particolarmente intenso in alcune aree del nord dell'isola. Le autorità reagirono con misure eccezionali, divieti sulle armi, arruolamenti forzati di sospetti, perfino regole sull'aspetto personale, mentre operazioni di polizia portarono a migliaia di arresti e numerose esecuzioni. L'immagine del bandito non era necessariamente ripudiata dalle élite locali, e non mancavano scambi di favori, amnistie e sconti di pena in cambio di servizi resi. Nell'Ottocento il quadro si complicò. Le faide fra famiglie e villaggi, alimentate dalla disamistade, furono spesso composte con paci pubbliche, cerimonie che sancivano l'accordo e chiudevano i conti di sangue. Intanto, provvedimenti come l'editto delle chiudende del 1820, dove chiudende indica le recinzioni e la privatizzazione dei pascoli e delle terre comuni, autorizzarono la chiusura e la privatizzazione di terre prima comuni, riducendo l'accesso collettivo a pascoli e fonti, e colpirono duramente pastori e greggi. Seguì una lunga stagione di trasformazioni, la sostituzione della vecchia raccolta di leggi locali, la crescita del prelievo fiscale dopo l'unità e un enorme disboscamento che cambiò il paesaggio e l'economia. A fine secolo, grandi operazioni di polizia segnarono un giro di vite, mentre nel dibattito pubblico circolarono teorie pseudoscientifiche che attribuivano ai sardi inclinazioni innate al crimine. Quei pregiudizi razzisti ebbero larga eco, ma furono a lungo contestati. Il Novecento si aprì con nuove inimicizie, processi celebri e una repressione che alternò strumenti amministrativi e militari. Durante il regime fascista, si cercò di rafforzare il controllo statale delle zone ritenute più difficili. Nella seconda metà del secolo, l'asticella dei guadagni spinse molti gruppi verso i sequestri di persona. Nacque così, in chiave giornalistica, l'etichetta anonima sequestri, coniata dai media per indicare i gruppi sardi dediti ai rapimenti a scopo di riscatto. Un modo di dire comodo ma fuorviante, perché non rimanda a un'unica organizzazione con vertici e gerarchie, a differenza delle mafie. Tra il 1960 e il 1997 furono accertati circa 180 sequestri in Sardegna. Le vittime erano uomini, donne e bambini di famiglie sarde, italiane o straniere, ritenute benestanti. I ruoli erano distribuiti fra rapitori, carcerieri, mediatori e sostenitori logistici. I rapiti venivano custoditi per mesi in zone impervie e i riscatti, spesso tra 300 e 600 milioni di lire, venivano poi ripartiti fra i partecipanti. Alcuni casi divennero famosi in tutta Italia. Lo Stato rispose con leggi speciali e reparti dedicati. La legge antisequestri del 1991 introdusse il blocco dei beni delle famiglie coinvolte per impedire i pagamenti. Operazioni su vasta scala come Forza Paris nel 1992, cioè un'operazione di pulizia dell'esercito italiano con circa 4.000 soldati a supporto di carabinieri e polizia per presidiare le aree interne e contrastare i sequestri, rafforzarono il controllo del territorio. Con il crescere del rischio di cattura e il calo della redditività, la forma tradizionale del sequestro sardo è sostanzialmente cessata nei primi anni 2000. Nel XXI secolo, salvo rare eccezioni, i gruppi criminali legati al mondo rurale hanno spostato il baricentro su altri reati: traffico di droga, assalti a sportelli bancomat e furgoni portavalori, perfino colpi contro depositi di società di sicurezza, talvolta con l'uso di mezzi da cantiere come le ruspe. Non sono mancati atti intimidatori contro sindaci di piccoli comuni. Il fenomeno resta quindi mutevole, ma molto diverso dai cicli storici che lo hanno reso famoso. Per comprendere la cornice culturale è utile chiarire tre parole chiave. Balentia, termine sardo, indica il valore personale, il coraggio, l'abilità nel cavallo e nella caccia. Essere valente non significa essere bandito. È un ideale di audacia e rispetto, spesso rivendicato come identitario. Disamistade è la vendetta regolata, un istituto del codice agropastorale, che prevedeva risposte proporzionate a torti ricevuti, talvolta estesi a famiglie o comunità. Le paci erano gli accordi pubblici con cui si chiudevano le faide, formalizzati con atti, riti religiosi e banchetti. Questi istituti non sostituivano la legge dello Stato, ma convivevano con essa in territori dove lo Stato appariva distante. Un'altra parola spesso chiamata in causa è omertà. Nel racconto giudiziario e mediatico, questa è indicata come il velo che protegge latitanti e complicità. Ma nelle comunità dell'interno, la reticenza è stata spesso spiegata più con la paura di ritorsioni che con l'adesione al crimine. Anche per questo, la cronaca sarda conserva una lunga lista di delitti irrisolti. Il banditismo sardo ha lasciato una scia profonda nell'immaginario. Lo raccontano romanzi, fotografie giudiziarie di fine Ottocento e opere cinematografiche come Banditi a Orgosolo, 1961, ambientato a Orgosolo, un comune dell'interno della Sardegna, Pelle di Bandito, film del 1969, e Padre Padrone, film del 1977 tratto dal romanzo di Gavino Ledda. E lo cantano, in chiavi diverse, brani che hanno segnato la musica italiana e sarda. Guardare a questa storia significa tenere insieme fattori geografici, economici, culturali e politici. Significa riconoscere l'assenza di una mafia con strutture centralizzate, ma anche la persistente capacità di adattamento di gruppi criminali locali. E significa distinguere tra tradizioni identitarie e pratiche illegali, evitando scorciatoie che confondono tutto in un'unica etichetta. Grazie per l'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio di Wikipodcast, seguiteci e scoprite gli altri episodi.